Vediamo se va questo qua. Due questioni hanno tenuto banco sui giornali nelle ultime settimane. Il rinvio del piano lupo allestito dal Ministero dell'Ambiente per la contrarietà delle regioni, in particolare sul punto riguardante la possibilità di eliminare ogni anno fino al 5% di lupi selvatici. E poi l'inserimento nel paniere Istat, che serve per misurare il costo della vita di alcuni alimenti tipici delle diete vegane e vegetariane. Sul primo punto, i lupi, la complicata vicenda, anche sotto il profilo politico, ha permesso ai quotidiani di esprimere le proprie posizioni e dare voce ai vari protagonisti. La stampa, ad esempio, il 1 febbraio ha titolato «Si riapre la caccia al lupo alla vigilia della conferenza Stato-Regioni», ospitando anche un intervento di Mario Tozzi riguardante anche i parchi, nel quale Tozzi ha scritto «La stagione venatoria appena conclusa riporta il solito bollettino di guerra alle specie protette. Fra queste sono stati uccisi un'aquila del Bonelli e 5 ibis eremita, animale sacro per tutti i popoli tranne che per il nostro. Per non parlare della possibile apertura della caccia di controllo, fra virgolette, al lupo appenninico. Dopo averlo salvato dall'estinzione, si decide di intaccarne la popolazione, perché scorrazza troppo libero per l'Appennino. Siamo alle solite, scrive ancora Tozzi. Tutta la natura ricondotta sempre e solo all'uomo, padrone di qualcosa che in realtà non gli appartiene. Un'opinione autorevole, un concetto direi ben detto. Il giorno successivo, dopo il no delle regioni, lo stesso giornale titola «Vincono gli ambientalisti dietro front sulla caccia al lupo». Nell'articolo si riportano le parole piuttosto irritate di Luigi Boitani, noto etologo e ispiratore del piano lupo bocciato dalle regioni, il quale a un certo punto dice «È stata una reazione esagerata, figlia di un'ipocrisia straordinaria da parte di quelli che si arroccano su posizioni non scientifiche». L'ipocrisia di far gestire i lupi dal bracconaggio. In realtà non si capisce bene in che modo l'eliminazione del 5% dei lupi sulla base della deroga prevista dai 22 punti del piano lupo dovrebbe o potrebbe eliminare il bracconaggio che secondo le stime già ora uccide ogni anno fra i 200 e i 300 esemplari. Il timore generale piuttosto è che questa possibilità di eliminazione, così come viene definita nel piano, fino al 5% dei lupi si aggiungerebbe al bracconaggio. In ogni caso la stampa ospita anche un'intervista con Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte, la quale, delusa dal no delle regioni, dice alla fine «Il rischio è che allevatori esasperati si facciano giustizia da soli». Sul quotidiano nazionale, alla vigilia della conferenza Stato-Regioni, un'intervista al ministro Galletti, il quale già presentiva il rinvio e l'opinione contraria da parte delle regioni, in questa intervista ha cercato di parare il colpo senza peraltro ottenere risultati. Ha detto Galletti non c'è nessuna caccia al lupo e ha ribadito il concetto che l'eliminazione del 5% degli animali permetterebbe di combattere il bracconaggio, ma anche qui non si capisce bene in che modo. In un'altra pagina, il quotidiano nazionale allarga il campo, ungulati, emergenza infinita, agricoltura e turismo in ginocchio, e si riportano le cifre dei cinghiali, in particolare eliminati in Toscana, 19.059 nel 2016, 7.000 in più del 2015, ma al di sotto degli obiettivi. Ma anche qui sembra che il piano di abbattimenti straordinari previsto dalla legge toscana, voluta dall'assessore Remaschi, non stia portando risultati, ma bisogna anche dire che animalisti e ambientalisti avevano ampiamente previsto che non c'era la possibilità di ottenere i risultati dichiarati, cioè il fatto che i cinghiali, i caprioli improvvisamente smettessero di procurare alcuni danni alle coltivazioni. Il quotidiano nazionale, all'indomani del no delle regioni, titola «Le regioni stoppano le doppiette, così i lupi continuano a ballare». Esultano gli ambientalisti, pastori in rivolta, salvate le nostre pecore. Nell'insieme rimane la sensazione che la possibilità di uccidere legalmente lupi sia stato un elemento introdotto nel piano lupo del Ministero soprattutto per placare la rabbia e la frustrazione di coltivatori e soprattutto allevatori, i quali forse dovrebbero riflettere sulla loro attività e sul modo che hanno in questa fase storica di portarla avanti. Chiudiamo con Il Manifesto, che riporta una grande pagina il giorno 5 febbraio, titolata «Un predatore di gran successo, identikit di una specie, dalla stabilità genetica ai conflitti con gli allevatori, un excursus delle attività di tutela del lupo», che si chiude con un finale un po' a sorpresa in cui si dice «ma in situazioni non più gestibili, forse un'azione di intervento gestionale estremo, come il prelievo, può essere una soluzione valida». e quindi ripropone il tema degli abbattimenti fino al 5% degli esemplari stimati, che ricordiamo sono circa 1500 in Italia, fra Appennino e Alpi. In realtà la spiegazione di tutto è forse proprio nella firma di questo lungo articolo, Valeria Salvatori. Il manifesto non specifica di chi si tratti nella pagina, ma non è una giornalista né una opinionista indipendente, bensì una delle maggiori responsabili per l'appunto sul piano tecnico del piano lupo del Ministero dell'Ambiente. E qui forse il manifesto avrebbe fatto bene a specificare le qualifiche e le caratteristiche dell'autrice di questo lungo articolo. Veniamo all'altro tema, prendiamo un titolo dalla stampa, Seitan, soia e tofu, il menù vegano nel paniere Istat, inclusi dopo l'incremento di vendite dei prodotti green. E si riportano anche un po' di cifre, 1,8 milioni di vegani in Italia, 357 milioni giro d'affari dei prodotti vegani nella grande distribuzione, con un aumento del 18% nell'ultimo anno e un 17% in più di vendite di menù vegetariani come zuppe pronte, pinzimoni, hamburger vegan e così via. La stampa riporta un'intervista con Pietro Lehmann, titolare del ristorante Gioia, il primo ristorante vegetariano ad avere le stelle della guida Michelin, il quale alla domanda risponde: non è più una moda, c'è stata una naturale evoluzione che non riguarda solo il cibo, anzi è una rivoluzione partita dal cibo, ma in realtà è un fenomeno culturale in cui la società cerca un maggiore equilibrio, una trasformazione inesorabile che sta accadendo. Per il Corriere della Sera, questa notizia merita questo titolo: cibi vegani, centrifughe di frutta, i nuovi consumi degli italiani, ecco il paniere Istat del 2017, entrano anche le birre artigianali e lo smartwatch. Sullo stesso tema, il Quotidiano Nazionale allarga un po' lo sguardo, titolando «Solo vegetali, rivoluzione a tavola, si è convertito un italiano su 10», e due piccole interviste, una a Simone Salvini, lo chef vegan reso celebre dall'imitazione che ha fatto di lui Maurizio Crozza. Dice Salvini: è una notizia che ci riempie di gioia, spero sia l'inizio e non il punto di arrivo. Inserire prodotti vegani nel paniere Istat è una conferma di come sempre più italiani abbiano rotto la diffidenza verso cibi nuovi, che possono integrare la loro alimentazione e aprire anche una maggiore consapevolezza alimentare. A fianco il nutrizionista Pietro Migliaccio mette in guardia, dice che la dieta vegana è troppo rigida, le persone che scelgono i cibi vegani raccomando l'assunzione di vitamina B12 e D, che possono essere sintetiche e quindi non di provenienza animale. Bisogna però dire che nemmeno una dieta onnivora, riconosce il nutrizionista, è del tutto sana, soprattutto se si esagera con la carne e i formaggi, perché aumentano il colesterolo e i trigliceridi. Opportunamente Migliaccio dice: il compito del nutrizionista non è giudicare le scelte etiche o religiose dei propri assistiti, ma di consigliarli per trovare una dieta equilibrata. La notizia del cambiamento del paniere Istat evidentemente ha colpito molto i grandi media, perché in qualche modo è l'ufficializzazione di un cambiamento sociale in corso. Per chiudere, una notizia curiosa che è sempre quanto di più gradito ai giornalisti italiani quando si tratta di animali. Stavolta tocca al delfino dell'Arno, come titola il Corriere della Sera di sabato 4 febbraio. Pubblica una foto in cui si vede l'Arno nella zona di Pisa, quindi vicino al mare, avvistato nel fiume il 31 dicembre, ormai arrivato a Pisa. Battezzato Capodanno, ma in rete si specifica preferiscono Galileo. Il luogo esatto è la foce dell'Arno in zona di Marina di Pisa e l'ultimo avvistamento, il 25 gennaio, è avvenuto dal ponte dell'Aurelia, quindi in una zona anche molto trafficata e rumorosa, ma si sa che i delfini sono animali sociali e quindi particolarmente predisposti anche ad avvicinarsi all'uomo.